Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, credo che tu oggi mi parli di un'indagine dell'Istat che ha fatto emergere dei dati interessanti sulla famiglia in qualche modo. Sì, un'indagine dell'Istat che a volte conferma un po' quelli che sono anche i dati dell'Adico, e cioè come emerge che in molte situazioni che ci capita di trattare qua nei nostri uffici la donna risulta un po' il capofamiglia. In sostanza volevamo precisare come la nota dell'Istat dichiara che 970.000 famiglie in Italia con figli o senza figli risulta solamente la donna occupata a tempo pieno part time, mentre l'uomo è in cerca di occupazione o risulta inattivo. Ecco, questo mi fa pensare che ci sono due possibilità: o le donne sono più richieste degli uomini, oppure forse le donne si adattano a fare anche dei lavori che gli uomini invece non vogliono fare. Beh, è vero che interpretando il dato così sembra che ci sia un po' un'inversione di tendenza sul fenomeno che le donne prendono meno soldi rispetto agli uomini. In realtà capitano che per effetto di malaugurate sorti magari uno di due perde il posto di lavoro oppure ha avuto altri problemi, magari come può essere problemi di salute. Però nella sostanza il dato che emerge è come fondamentalmente oggi ci sia praticamente 1 milione di famiglie dove lavora solo la donna, quindi un dato che molte volte magari è sempre passato in sordina, ma che sostanzialmente smentisce un po' appunto quelli che è il ruolo della donna nella nostra società, ma anche tende a ribadirlo come ormai la donna sostanzialmente è parificata all'uomo, e questo anche in un contesto di nucleo familiare in cui ormai sia l'uomo che la donna sono abituati a lavorare rispetto a una volta dove magari lavorava solo l'uomo. Ecco, adesso c'è qualcuno che dice io faccio il casalingo, insomma. Sì, forse non con troppo vanto gli uomini potranno arrivare ad affermare una cosa del genere, però certamente i numeri sono molto curiosi. Ricordiamoci anche che, snocciolando un po' il dato diffuso dall'Istat, risulta come il 6,6% delle famiglie presenti sul mercato del lavoro hanno anche vivono con redditi che non sono provenienze da lavori o da pensioni, ma magari, che ne so, da rendite, come può essere l'affitto di un appartamento, mentre ci sono altre situazioni dove magari il dato di disoccupazione varia a seconda che si è genitori o dei single, e paradossalmente risulta come i single sono meno disoccupati rispetto ai monogenitori, 8,4% contro 12%. Certo, una cosa interessante in questa indagine, che insomma verte ovviamente sul mondo del lavoro, è sempre la disoccupazione anche dei giovani. Purtroppo la disoccupazione dei giovani è un fenomeno di dimensioni enormi, soprattutto in Italia. Certamente un fenomeno che fa confermare quella che sostanzialmente è un dato e una situazione di difficoltà che il paese attraversa. Ricordiamoci che ora stiamo parlando dell'abolizione dei voucher, e anche questo poteva essere in qualche modo un incentivo ai giovani, per chi magari prestava lavori occasionali come facevano per esempio i camerieri o i ristoratori, o chi aveva certe tipologie stagionali. Certamente tutta una cosa che nelle prossime mesi vedremo se confermata o ribaltata, perché certamente anche quest'ultimo decreto del governo andrà a stravolgere questi numeri. Certo, a proposito di voucher, proprio i giornali di questi giorni scrivevano che sono andati quasi tutti venduti, c'è stato l'assalto dei voucher, perché fino alla fine del 2017 sarà possibile utilizzarli. Sarà possibile utilizzarli, ma non è ancora chiaro come. Il governo, nella fretta e soprattutto nel ricatto di un referendum, è stato molto approssimativo, non ha tenuto conto di tante realtà. Vedremo nei prossimi giorni se riescono in qualche modo a mettere un po' di ordine a questo ennesimo strafalcione che già l'ufficio stampa, insomma, del governo ha messo in buona parte, per cui tutto un fenomeno che nei numeri sicuramente nei prossimi giorni ci troveremo a ragionare. Va bene, credo che questo nostro sguardo che abbiamo dato oggi sia assolutamente interessante. Poi nel sito dell'Adico si trovano tante belle informazioni utili, vi invito ad andarlo a vedere, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove poi trovate anche i contatti per chiedere un eventuale aiuto proprio all'Adico. Grazie a Carlo Garofolini, al prossimo appuntamento fra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.